Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Destini incrociati ci porta oggi nella Francia dei primi anni 50. Un uomo di mezza età è seduto nel suo camerino davanti allo specchio. Le lampadine accese, una sigaretta in mano, un buon cognac nell'altra. Sta aspettando qualcuno. In quei lunghi attimi il suo pensiero sta correndo lungo il filo della sua vita, della sua carriera. La guerra è finita da un pezzo e troppe cose sono cambiate rispetto a quando lui era una vera star. Lui, che si è imposto come antieroe romantico, il principe degli outsider, sa che questa immagine non è più adatta alla realtà del dopoguerra. Certo, è ancora molto bravo come attore. Per lui ogni porta dello show business si apre quantomeno per rispetto. Ma adesso, accanto a lui, c'è tutta una generazione di nuovi interpreti, pronti a competere con un entusiasmo nuovo, diverso. Quel divo che si guarda allo specchio vede un uomo di mezza età, ora più che mai in cerca di un ruolo che sappia interpretare, rinnovando se stesso e il suo incredibile talento. Ha il volto di un padre, di un criminale, di un amante. Il volto di un uomo duro con un cuore, capace di provare e far provare incredibili emozioni. Il suo volto riflesso allo specchio racconta tutta una vita, quella di Jean Gabin. Jean Gabin. Quand j'étais gosse comme trois pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. In questa canzone Gabin racconta la sua vita e si rivede bambino. Un soldo di caccio che parla troppo e, come si dice, sa tutto lui. Ha lo sguardo di sfida perennemente scolpito sul volto per bilanciare la sua piccola figura. In campagna, a Meriel, nel nord della Francia, il confronto tra i bambini è spietato, nel 1914, così come oggi. Jean-Alexis Gabin Moncorget ha 10 anni e guarda con occhi sognanti i treni che sfrecciano sulla ferrovia poco lontano dal paese. Lui vuole guidare le locomotive come suo nonno e magari puntare in direzione di Parigi per raggiungere i suoi genitori. Non è infrequente che i piccoli vengano lasciati, come accade a lui, ai parenti più stretti quando si è impegnati a cercare fortuna nella grande città. Gabin abita con sua sorella, mentre papà e mamma fanno gli artisti di operetta e di café chantant nella capitale francese. Ma i primi anni 20 fanno crescere in fretta e a 15 anni per Jean è tempo di andare in cerca di lavoro, che troverà come operaio. Non salirà mai sulla locomotiva per guidare un treno come il nonno, ma presto salirà su un treno come passeggero verso il suo destino. Il suo futuro non è quello di un operaio. Il papà, infatti, lo chiama a Parigi. Gli ha trovato un posto buono, in un locale famoso. A 18 anni, Jean entra alle Folies Bergères, un'altra scuola di vita. Musica, luci. Ora Jean è sul palco come figurante, mentre la vedette è un comico noto come Bach, che recita delle macchiette in cui fa la parodia dei soldati. 2 anni alle Folies Bergères e Gabin si tempra, assorbendo ogni aspetto della vita di spettacolo. Non lo fermerà il servizio nella Marina Militare. Dentro si sente già un vero artista. E come tutti i giovani talenti, si ispira al modello che di più lo appassiona. Inizia a esibirsi cantando alla maniera di Maurice Chevalier, un cantante molto famoso all'epoca, un damerino. Elegante, forse un po' frivolo. Gabin ancora non ha abbracciato i caratteri del maledetto e forse si sente un po' entrambe le cose. Gabin canta Chevalier, si sente Chevalier. Sente perfino attrazione per le donne di Chevalier. Incontra la cantante Miss Tinguette, all'anagrafe Jean Bourgeois, che rompe con Maurice Chevalier e si affianca al giovane Gabin. Le porte del Moulin Rouge e poi del Bouffe Parisien, tempio del teatro musical, si spalancano per quel piccolo dagli occhi di ghiaccio così sicuro di sé. Gabin ricorda quell'amore capace di condurlo con facilità nello spettacolo, tra musica e operetta. Lui strappa l'applauso del parterre a ogni esibizione. Ma la fine degli anni 20 è densa di mutamenti. Il pubblico inizia a guardare altrove e alle atmosfere sfavillanti del Moulin preferisce le immagini che scorrono in una sala buia. È cominciata l'epoca del cinema, E Gaben, inquieto e pieno di energie, accetta il cambiamento. Inizia a lavorare nei cortometraggi. Poi, nel 1930, trova un ruolo in Chacun sa chance, primo film parlato a uscire in Francia. Il primo vero film per il nostro Jean Gaben. Nel 1934 è già al fianco di Marcel Duvivier, colui che successivamente dirigerà il Don Camillo di Guareschi con i protagonisti Fernandel e Gino Cervi. Il set è in Canada. Il film si intitola Marie de Chapelaine. Duvivier, che è un mago della tecnica, gli svela i segreti dell'obiettivo. E Gaben fa tesoro di ogni parola, stupisce il suo maestro e cosa fa? Muore. Il suo personaggio è un uomo semplice, un cacciatore che vive nei boschi e muore pietrificato in una tempesta di neve. Nell'interpretazione di Gaben, stupefacente per la sua bravura, Duvivier trova lo stimolo a creare altri film con un simile finale, dove i personaggi svelano la propria intensità proprio quando il destino non volge a lieto fine. Duvivier ha ora per Gaben una considerazione straordinaria. Ma devo dire che Jean Gaben è un attore con un carisma eccezionale. Nel 1937 l'attore interpreta Pépé Le Moko, sempre di Duvivier. Il film consacra gli emarginati sconfitti dal destino e per il pubblico si crea subito un legame tra il volto di Gaben e il nome di Pépé, il capobanda che si muove per le vie di Algeri, nella Kashbah, mentre la sua storia fonde malavita e dramma d'amore. Noi duri. Siamo sempre fuori, scivolando lungo vicoli scuri. Torniamo da mamma. Jean Gaben è nel suo camerino. È il 1953 e il set è quello di Ne touchez pas au Grisby. È ormai un grande attore. Quel giorno ha un appuntamento. Un appuntamento con il suo futuro. È un divo di mezza età. Il suo pensiero, mentre attende il suo ospite, torna ai tempi della gloria, prima della guerra, a quando incontra il grande regista Jean Renoir. I due sono insieme nel 1937 per un film che invita alla pace ed è un capolavoro. Si intitola La grande illusione, una storia di soldati detenuti durante il primo conflitto. Un film sulla guerra dove tacciono le armi e parlano gli uomini. Un Gaben da non dimenticare. La grande illusione vince un Oscar, viene proiettato alla Casa Bianca e resta per 6 mesi in cartellone a New York. Il grande autore Georges Simenon spiega così il fenomeno Gaben. In quell'epoca Jean Renoir mi diceva spesso: quando uno gira con Gaben può concedersi il lusso di non dirgli niente. Lui entra nel personaggio e interpreta il ruolo. Ma non è un ruolo. È talmente naturale che sei convinto di avere davanti il personaggio in carne ed ossa. Gaben è un camaleonte. Affronta ogni ruolo con una freschezza che viene da un incredibile talento unito a una grande passione. Ma il pubblico, si sa, si innamora presto di un'immagine, di un modo di essere che compone un carattere indimenticabile che per Gaben, dopo Pépé Le Moko, si conferma puntualmente, diventando per lui una sorta di prigione. Gaben passa sotto la regia di Marcel Carné e di uno sceneggiatore che fa anche il poeta, Jacques Prévert. Siamo nel 1938 sul set de Il porto delle nebbie. Un capolavoro sintetizzabile in 2 battute memorabili. T'as beaux yeux, tu sais. Hai dei begli occhi, sai? Embrassez-moi. Baciami. Gaben è in compagnia della fascinante Michelle Morgan, che ricorda così quel momento straordinario. E poi c'era Gaben. Questo non poteva che aiutarmi. Per me, che ero un'attrice giovane, era una scuola di recitazione. Non avevo altro da fare che seguire le sue intonazioni e quello che faceva. Era una lezione continua, una cosa piuttosto lontana da quello che si poteva fare con gli attori dell'epoca. E io ho avuto questa scuola meravigliosa all'età di 18 anni e questo mi ha aiutato moltissimo. Ma per l'attore, Michelle Morgan non rimane solo una collega del set, diventa molto di più. È un amore che nasce quasi alzando la nebbia di Le Havre per portare il sole. Infatti proprio Gaben dice cosa si prova ad essere amati e come quando il tempo diventa bello, anzi di più, bellissimo. Ce que j'ai appris, ça tient 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire. Il fait très beau. Jean e Michel diventano la coppia più famosa del cinema francese. Ma il 3 settembre 1939 una notizia interrompe i loro sogni. La Francia è entrata in guerra. Michel decide di fuggire in America. Gabin, almeno per il momento, resta. Eravamo tristi. Lui restava sul marciapiede vicino al binario e io ero quella che partiva. E la nostra storia non l'avevamo più. Rien n'est plus mignon qu'un petit poupon, c'est la joie d'une maison. Ne pas en avoir vraiment des espoirs, commençons-le ce soir. Oui, de toi, mon grand, je veux un enfant, je lui réponds, attends. S'il doit être Napoléon, je ne dis pas non, je ne dis pas non. Poincaré ou Monsieur Chiron, je ne dis pas non, je ne dis pas non. Si c'est une fille, je désire qu'elle soit aussi belle que Madame Sorel. Gabin non riesce a sopportare il clima filo-nazista dell'occupazione. Vola anche lui a New York, dove frequenta il cabaret La Vie Parisienne. Qui incontra una prussiana famosa, Marlene Dietrich, che è fuggita dalla guerra come lui. Il bel francese ha l'aria persa, lei no. Si è creata tante relazioni nel mondo del cinema, vuole aiutare gli artisti esiliati dall'Europa. È una donna che dà scandalo per i suoi amori, ma da quella sera non ha occhi che per lui e Jean non è da meno. Si innamora di lei. Gabin entra nelle Force Française Livre al comando del generale de Gaulle. A Washington, nel 43, l'ufficiale che accetta il suo arruolamento è perplesso. Magari non lo manderanno in prima linea, è il mito del cinema francese. E se muore? Il suo compagno Jean Moncorgé ricorda quel momento drammatico. Lui era comunque certo che sarebbe morto, che stava per perdere la vita. Sul petto di Gabin brillano presto la medaglia militare e la croce di guerra. È il luglio del 45. Di nuovo in Francia e con la guerra alla sua fine, non gli resta che riprendere il suo posto di vedette. Gli pare sia una cosa naturale, ma non è detto che sarà così. Gabin si confronta con le novità, un'ondata quasi travolgente che innanzitutto arriva dall'America. Il pubblico, finalmente, può applaudire pellicole vietate nell'occupazione, ride con Charlie Chaplin che fa il grande dittatore, piange con Rossella O'Hara seguendo Via col vento, si diverte con le commedie musicali e i film d'azione, i western, i polizieschi. Oh, Garbisch, l'invasione dell'Austria. È tutto così semplice. Le truppe, i carri e i cannoni saranno nascosti al confine. Per sviare i sospetti voi andrete a caccia di anatre o altra roba. All'ora stabilita voi verrete al villaggio di Pretzelberg. Prendete il comando, salite in automobile e passate il confine con l'Austria. Herring ed io saremo alla capitale a ricevervi. Prima Napoloni deve ritirare le sue truppe dal confine. Tra i suoi connazionali, Gabin deve fare i conti anche con la notorietà di Fernandel e di Raimu, ma soprattutto con volti nuovi. C'è Gérard Philippe, che dà corpo alla fragilità e all'inquietudine dei giovani nel Diavolo in corpo. C'è Jean Marais, anche lui trentenne, bellissimo protagonista delle pellicole di Jean Cocteau. Gabin non sta certo con le mani in mano. Gira Martin Romagnac con Marlene Dietrich, la bella avventuriera. Poi un poliziesco, Miroir. Gli piace quel film, vuole prolungare il sapore di quelle atmosfere. Sente che possono essere la strada della sua riconferma artistica. Ci vorrebbe una parte da duro, un uomo deciso. In quella sì ci starei dentro bene, come in Miroir forse. Facevo il capobanda di una gang a Marsiglia, cattivo, ambiguo, uno che fa il doppio gioco. Ecco, quello era un duro, mi somiglia. Già dimostravo 10 anni di più di quelli che ho e gli occhi dicevano sempre che con gli occhi facevo innamorare le donne, e adesso che ho lo sguardo diverso io credo che tutto quello che ho passato in guerra, se la morte la guarda in faccia, è lei che ti cambia. E poi la storia. Ci vorrebbe qualcosa di forte che sorprende, ma dove la trovo? Perché è tutto lì, eh? Per fare il cinema devi avere una buona storia. Sorride Jean Gabin nel suo camerino quel giorno, in attesa del suo ospite. La storia l'ha trovata, il personaggio pure. Adesso deve incontrare il coprotagonista. Lui vuole vederlo. Ancora non sa che quell'incontro cambierà per sempre la vita di entrambi. Tra poco, a destini incrociati. Noi due allegramente fuori moda, per puro caso, alla ribalta. Dobbiamo dare il buon esempio, andare a testa alta. Eccoci, siamo noi sicuramente i migliori in noi stessi che esistono. Ed anche i nostri difetti ci danno carattere. Ehi, Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati, Jean Gabin, l'eroe romantico del cinema francese, ha combattuto la Seconda Guerra Mondiale e ora lo aspetta la sua personale sfida con una nuova realtà. Quella di un cinema cambiato che guarda il mondo senza illusioni. Lui, che è già stato vincitore ai festival internazionali, acclamato dal pubblico, difeso come un emblema nazionale, ora che la guerra è finita, vuole ritrovare il suo posto di capofila sullo schermo. Sono gli anni in cui il cinema francese vive un fermento, cerca nuove vie, linguaggi e nuove fonti. Tra i suoi registi c'è Jacques Becker, che nel 1953 adatta per le scene un romanzo apparso nella Nouvelle Revue Française e vincitore di un importante premio letterario. Il suo titolo è Touché pas au Grisby. Per Gabin, finalmente, qualcosa che gli ricorda Miroir, il film che ha appena girato. Ma il regista non vuole Gabin. La trama è concentrata su personaggi gangster. Il pubblico ha preso gusto per i thriller e non è detto che l'unica strada sia quella di replicare la maniera dei registi americani, con l'obiettivo puntato alla rapina e all'inseguimento mozzafiato. Becker decide di mostrare un mondo di malavitosi colti nel quotidiano, mentre due boss si contendono un malloppo che da loro prende il nome di Grisby. Da una parte c'è il gangster Max, sulla cinquantina. Dall'altra il boss rivale, giovane. Un italiano. Per la parte di Max ci vuole uno con la faccia giusta e Becker propone il ruolo all'attore Daniel Gélène, che dice no con queste parole. Questo non è un ruolo per me, è un ruolo per Gabin. Jean Gabin deve ingoiare la pillola di essere la seconda scelta, ma accetta. Sente che la parte gli calza a pennello. Max è il ruolo per lui, non una, ma due volte. Non è solo un gangster, è anche un uomo che deve venire a patti con la mezza età. Bene. Trovato un boss, ora Becker si dà da fare per quell'altro. Ricerca ardua, deve essere italiano come il personaggio, deve parlare francese, avere il piglio giusto, reggere la presenza di Gabin senza abbassare gli occhi. Gli dà un aiuto il suo coproduttore, Emanuele Cassuto, di Unitalia Film. Ha un'idea. Lui ce l'ha un amico così. Come si chiama? Bah, Angiolino, Lino. È un ex lottatore e quando è sul ring si fa chiamare Angelo Borrini. Però si sa che ha anche un altro cognome. Ventura. Lino Ventura. Lino Ventura. Il giovane regista Becker davanti ai debuttanti non si spaventa. Cercare volti nuovi è nel suo stile, così non perde tempo. Scova Lino Ventura a Parigi, che è alle prese con il suo lavoro. Organizza incontri di catch, l'antesignano del wrestling, alla Salvagram. Becker si presenta e gli dice del film. Che cosa succede? Lo sentiamo da Celia Ventura, figlia di Lino. Papà n'a absolument pas compris que c'était pour lui. Papà non ha capito affatto che l'offerta era per lui. Ha capito che si trattava di una dimostrazione sportiva per il cinema. Così è arrivato da Becker con le foto dei suoi lottatori sotto il braccio. E quando Becker l'ha visto, ha detto: è lui! Un colpo di fulmine cinematografico. Succede, arriva uno e dici: ecco, questo è il mio personaggio. E papà gli ha detto: senta, non è il caso. Se mi chiedesse di portare Marcel Carnet alla Sala Wagram, io direi di no. Ecco, adesso per me è la stessa cosa. E se n'è andato. Ma Becker insiste. E Ventura, tanto per dargli una risposta, spara una richiesta assurda, 1 milione di vecchi franchi, più o meno quello che prende Gabin. Ma il motivo per lui è solo pratico. Deve cambiare macchina, tanto vale provare. Becker ci sta. Incredibile. E così Lino si presenta ai provini. E allora cerchiamo di immaginarcelo Ventura, che è abituato ai ring, ma un set non l'ha mai visto. Parte senza pensarci troppo, va a Billancourt giusto per salvare la faccia, al massimo se non funziona torna indietro. Arriva e rimane affascinato da tutte quelle macchine, dalle apparecchiature, dallo spirito di squadra che regna nello studio. E come affronta il provino, ce lo racconta lui. Stavo davanti a una cinepresa per fare questo film. Ma di questo lavoro non avevo bisogno. La mia vita non dipendeva da questo. E allora ero completamente rilassato. E penso che sia andata bene per questo. Perché se quel giorno fossi stato teso come uno che ha bisogno, era diverso. La vita è così, qualche volta è crudele, proprio quando un lavoro ti serve di più. Ma io in quel momento non ne avevo bisogno. E sono sicurissimo che è andata bene proprio per questo. Ventura non solo è rilassato, è anche bravo. Di questo allo studio se ne accorgono e come, anche se nessuno sa il suo nome. Questo qui ha davanti una carriera, qualcosa che al cinema la vedi subito, e oltre il talento, non te la puoi spiegare se non come un dono del cielo. E il ragazzo del provino è così. Parola di Jean Gabin. Ho visto il provino che gli aveva fatto Becker e l'ho trovato straordinario. Aveva una presenza fortissima, una personalità enorme. E ho chiesto a Becker: ma chi è questo? Dove l'hai scovato? E lui mi risponde: è un lottatore di catch. E io: ne ha di personalità. Ed è così che Lino ha cominciato a fare cinema e noi due siamo rimasti grandi amici. Quand on a tout ce que j'ai là, quand on sent qu'on a tout cela, c'est affligeant, décourageant de voir négligé par les gens toutes ces qualités. Et parce que quand on a tout ce que j'ai là, quand on sent qu'on a tout cela, c'est embêtant de jouer tout le temps le rôle d'un con. Monsieur Gabin, attore di mezza età alla ricerca di una chance per ritornare agli splendori di prima della guerra, è sul set di Touché pas au Grisby, un film nel quale gioca la parte di un gangster di mezza età. Con lui ci sarà un attore italiano preso più per la faccia che per le sue capacità. Ma sul set ci sa fare davvero. Si chiama Lino Ventura. Avrà un ruolo da boss contro un altro boss. Ma se davvero reciterà la parte, sarà una condizione e quella la decide lui. Per questo arriva sul set e va dritto al sodo. Ha ancora la valigia in mano e chiede di vedere Gabin, ora, per favore e subito. Jean Becker, che è il figlio del regista, lo accompagna al camerino di Gabin. Sta per entrare e in mente che cos'ha, come spiega questa sua esigenza. Lo sa Célia, sua figlia, che lo conosce molto bene. C'est ça qui est fou parce que mais je crois que ça c'est une réaction de sportif. Perché ha ragionato da sportivo. Da bravo lottatore aveva bisogno di guardare l'altro e lui ha sempre detto: se guardi l'altro, capisci chi è. E lui è andato lì per un confronto, come se quello fosse un combattimento. L'incontro avviene dentro al camerino di Gabin, che ha ritrovato la sicurezza di un tempo e lo attende con sguardo fermo, i modi da signore, una bella stretta di mano, insomma, è cordiale. Tra loro due, solo parole del tipo: come va? Bene, grazie. A più tardi. Ed è tutto. Almeno sembra, perché in quella stretta di mano il destino di Ventura cambia ed è Gabin lo spartiacque, avendo trattato Lino col suo senso innato di rispetto. Lino non dimenticherà mai quella stretta di mano. Ed è per questo che ho fatto cinema, altrimenti credo che me ne sarei andato. Quindi è sicuro, gli interpreti ci sono tutti e mentre la troupe si prepara andiamo a conoscere più da vicino Lino Ventura, che ha solo 34 anni. Il suo vero nome è Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura, è nato a Parma e si trova in Francia da quando era piccolo. È partito dall'Italia con la mamma, Luisa Borrini, per cercare suo papà. Ma Giovanni Ventura a Parigi non si è fatto trovare. Una storia di emigrazione come tante, che scopriremo tra poco a Destini Incrociati. Who were on the road must have a code that you can live by and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well their father's hell. Destini incrociati. A Destini incrociati, un attore di mezza età, Jean Gabin, e un giovane attore di origini italiane, Lino Ventura, sono faccia a faccia, nel camerino della star francese, sul set di Ne touchez pas au Grisby. È il 1953, ma la storia di Lino Ventura inizia molto prima, nel 1926. Je suis arrivé en 1926. Sono arrivato nel 26. Avevo 7 anni e mi sono ritrovato nel Quartier des Italiens, dove è cominciata la mia vita di giovane immigrato. Ancora oggi, quando si arriva, è quello il posto dove uno va a vivere provvisoriamente. Qualcuno ha detto a mia madre: vada lì, c'è un tale. E quello ci ha aiutato a trovare alloggio in questa via che mi ricordo ancora. Era al 55 della Rue Marie de Montreuil. Una casa c'è, ma bisogna pur mangiare. Luisa trova lavoro e lascia Lino a scuola, ma lui non sa il francese e i compagni ne approfittano. Un'esperienza dura per lui che è così piccolo. Ho fatto un'incursione alla scuola elementare che è stata breve. E questo per ragioni che a spiegarle sarebbe troppo lungo e anche spiacevole. Ma sapete, La crudeltà dei bambini è una delle cose più tremende che ci siano, una cosa spaventosa. E poi in questo periodo mi sono trovato da solo con mia madre e i miei studi sono stati brevi, molto brevi. Se ne va presto dalla scuola, ha molto più da fare aiutando la mamma. A 8 anni trova tanti lavoretti, ma non sa tenerseli per molto, è un indisciplinato e negli ambienti di strada che frequenta impara presto a farsi rispettare. Ne incontra di balordi e decide subito che non sarà uno di loro. Gli piace tanto leggere e poi andare al cinema e guarda caso tra i suoi attori preferiti c'è Jean Gabin. A 16 anni un giorno entra per caso in una palestra e lì è la folgorazione, insegnano la lotta. Quella diventa la sua vita. Poi incontra Odette, bellissima, la sposa. Diventano marito e moglie nel 42, ma c'è la guerra e lui deve partire. È un italiano, deve arruolarsi nel suo paese sotto i fascisti. Si salutano a Parigi, Gare de Lyon, ma tempo 6 mesi Odette se lo ritrova davanti, è scappato. Berlino la vita si fa pericolosa, con Parigi occupata dai tedeschi. Chi lo aiuta e lo nasconde sono soprattutto i suoi compagni lottatori. Guerra o non guerra, Angiolino non smette mai di battersi, per cui noi lo ritroviamo nel 1950 campione d'Europa nella lotta greco-romana. È una star. Sul ring non si misura solo con gli avversari, impara ad affrontare il pubblico. Ma un giorno, in un incontro con Hulk Hogan, si becca una frattura molto brutta. La gamba destra se la rompe in 2 punti e da quel momento con gli incontri ha finito. Quindi cambia lavoro, organizza i match. Ed è qui che lo trova il regista produttore Jacques Becker. Disposto a sballare solo per crescere, non so come. Yeah, yeah. Ci vuole calma e sangue freddo, calma. Sangue freddo, oh, yo, yo, oh, yo, yo. Calma, è sangue freddo, calma, yeah. Ci vuole calma, è sangue freddo. Nel marzo del 54, Touché Pas au Grisby esce nelle sale ed è subito un successo. Gabin riprende il volo, vince 2 volte la Coppa Volpi come migliore attore. Max Lementeur ha mantenuto la promessa e lui ha fatto bene a credere tanto in quella parte. Un ruolo moderno, quello di Max, con 1000 sfaccettature. E Gabin le ha rivelate con bravura impareggiabile. A coronare il tutto, le note di Jean Vienner, autore di un tema jazz struggente che diventa hit. E Lino Ventura? Felicissimo, ma per lui il set è stata una parentesi. Ha 4 figli da mantenere e un rispetto sacro per il denaro, quello sicuro. Il suo lavoro è solo accanto al ring. Ma Gabin lo chiama già l'anno dopo accanto a sé, sul set di un poliziesco, Razzia sur la Schnuff. E lui accetta, gira un film anche l'anno successivo, ma per il passo decisivo, lasciare i combattimenti per fare cinema soltanto, ci vogliono 2 anni. È un passo coraggioso per la sua vita. E ancora gli è accanto l'amico Jean, che gli svela qual è la chiave del successo, quella che ha riaperto a lui le porte del cinema. La cosa fondamentale è la storia. Mi ricorderò sempre di una cosa che Jean Gabin mi ha detto quando ho cominciato a fare cinema. Mi ha detto: ricordati che per fare un buon film hai bisogno di 3 cose. Primo, una buona storia. Secondo, una buona storia. E terzo, una buona storia. È la formazione a preoccuparlo. Lui non ce l'ha e non gli basta il suo carisma naturale. E allora la scuola se la fa da solo. Come? Al cinema, come spettatore, guardando 4, 5, 6 film al giorno. Rimane tutto il giorno sul set in attesa del suo turno, come il maestro Gabin, come ancora ci ricorda Georges Simenon. Sono andato spesso a vedere Gabin, anche quando lavorava in film che non avevo scritto io. Andavo a vederlo girare. E ammiravo la sua coscienza professionale, la sua pazienza. Jean, pur essendo un divo, era il primo ad arrivare in studio e il primo già truccato. Anche se doveva girare molte ore più tardi, stava seduto nella sua poltroncina in un angolo e aspettava il suo turno. Ho sempre ammirato questa sua coscienza da professionista. È questo l'insegnamento di cui Lino fa tesoro, come ci dice lui stesso. Quando giro non lascio mai il set. Cito un'altra frase di Gabin che mi ha sempre detto: pensa a questo lavoro come a una cosa che ti domina. Devi restare sul set a partire dalle 10, le 12 e poi fino alle 7:30 di sera, con le battute pronte e il trucco a posto. Sul set Lino Ventura è un compagno di lavoro fantastico, cordiale, disponibile con tutti. Non si tira mai indietro. Valorizza tutti, insomma, se stesso come gli altri. E su una cosa non deroga mai: il senso del rispetto. Ho il più grande rispetto per gli altri, ma voglio essere rispettato. Non ho mai chiamato un giovane "ehi ragazzo", l'ho sempre chiamato signore. Ma non bisogna tagliarmi la strada, perché sennò non va a finire bene. Diciamo che può anche essere un po' pericoloso. Con l'amico Jean Gabin il rapporto è sempre più stretto. Sono entrambi padri di famiglia. Gabin nel 49 si è sposato con Dominique Fournier, un'ex modella, e ha coronato un sogno: mettere radici e avere figli. E farsi invitare ogni tanto dall'amico. Ah, se mangi da Lino, non scherza, per lui è una cosa seria. Mangi veramente bene, ti porteresti via tutto avvolto nel tovagliolo. Mi ricordo una volta a casa sua c'era cotechino e lenticchie e un'altra volta il cosciotto di cinghiale. Mio Dio, quando mangiava pensavi che ti avrebbe fatto fuori. Non osavi dire una parola, gli sentivi le mascelle fare clac, clac, clac, clac, clac e pensavi: se mi avvicino mi azzanna. Non puoi immaginartelo, Lino, un campione del mondo. Jean Gabin ormai ha consacrato il ruolo di leader del cinema francese. Lino Ventura sta cementando il suo di grande attore. Nel 1969 si gira un film che è il coronamento del primo incontro tra i due attori e dove Gabin, nei panni del patriarca mafioso Vittorio Manalese, chiude trionfalmente il ciclo dei suoi antieroi, dopo Pépé Le Moko e Max Lementeur. È il clan dei siciliani, con le musiche indimenticabili di Ennio Morricone. Nel 1976 il produttore Georges Craven decide di inaugurare un premio nazionale, un Oscar francese, come hanno fatto gli americani, per i grandi professionisti del cinema. Si chiamerà Premio César. Sul palco sale fra gli applausi il presidente d'onore della serata, emozionato come mai avrebbe immaginato, e ha davanti a sé una platea eccezionale, tutti i suoi colleghi. Bon, bah alors je dis la phrase. Bene, ora pronuncio la mia frase. Stasera, per il primo anno, vengono assegnati i premi del cinema francese, il César. E come è giusto che sia, dichiaro la cerimonia ufficialmente aperta. Voilà! Quale premio poteva essere più grande per Jean Gabin che stare su quel palco ed essere lui stesso il simbolo di tutta la grandezza del suo cinema? A novembre il cielo è grigio, Jean Gabin muore. La Francia è in lutto, ai César dell'anno successivo però sul palco c'è un altro presidente. Chi? Lino Ventura, certo. Quella stretta di mano del 53 da parte di Gabin lo ha portato qui, in questa notte, a vivere l'apice di una carriera che mai avrebbe sognato di intraprendere. Ora lui rappresenta tutto il grande cinema di Francia. L'orchestra di Ennio Morricone ha appena suonato le note di Grisby. E noi sentiamo a chi è dedicata la serata. Una dedica che non solo parte da un palco, ma dal cuore. Je sais que c'est une formule consacrée, mais... So che è una formula consueta, ma ci tengo a dire quanto sono onorato che i miei colleghi abbiano scelto me per presiedere questa serata. E per me la grande emozione è anche essere il successore di quello che è stato il mio esempio, il mio maestro, il mio amico. Ed è per questo che a nome mio e a nome di tutto il cinema francese dedico questa serata a Jean Gabin. Je dédie cette soirée à Jean Gabin. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient trois, quatre mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. Destini incrociati. Destini incrociati. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. La redazione vi aspetta su destiniincrociati.it. Ora Destini Incrociati è anche un libro. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.